quanto riguardava il fondo delle segnerie, ma proprio fisicamente anche questo materiale del Fogolar Furlan che abbiamo catalogato in questi anni e poi reso fruibile, diciamo, per le persone. Questa era un po' l'idea di fondo, far conoscere questo materiale, metterlo a disposizione in una maniera più semplice, soprattutto renderlo anche individuabile facilmente da chiunque, mettendolo in internet con la catalogazione. Quindi chiunque può trovare in internet i libri del Fogolar Furlan, vedere quanti sono, quali sono, eccetera, eccetera. E questo lavoro è iniziato praticamente nel 2007, perché la consegna è venuta, è stata perfezionata, diciamo, alla fine dell'autunno, nell'ottobre 2006, mi sembra. E poi tra il 2007 e il 2008 e metà del 2009 abbiamo finito, perché erano parecchi libri. Poi la mia collega, la dottoressa Pfeiffer, vi darà tutte le informazioni più dettagliate in quanto ha coordinato l'insieme del progetto. Questo lo dico anche perché nel frattempo, in questi 2 anni e mezzo, chi lavorava su questo fondo ha fatto nel frattempo 5 figli, quindi in questa biblioteca sono nati 5 bambini. Insomma, e quindi questo ha un po' sicuramente portato a dei momenti di ricambio, di ridistribuzione dei ruoli fra di noi, eccetera, eccetera. Però insomma, in ogni modo, ogni promessa deve essere mantenuta, e anzi volentieri l'ha mantenuta. E io ringrazio la fiducia, anche la fiducia che ha dato a questa piccola biblioteca. E siamo convinti che in questo modo, anche in questo modo, venga promossa una certa cultura e comunque un certo pensiero, rendendo accessibili i documenti. Diffonde, ecco, di sicuro la cultura in maniera anche più democratica, piuttosto che tenerli stretti o in casa. In un'epoca come la nostra è meglio catalogare e mettere in internet, perché chiunque trova quello che gli serve, qualunque esso sia, insomma, qualunque documento, qualunque informazione. Ecco, io vi ringrazio, avremo poi modo ancora eventualmente di parlarci. Cedo la parola un attimo ad Elena Pfeiffer, che vi farà vedere alcune immagini e vi dà alcuni dettagli su quello che è stato fatto. Grazie. Ecco, buonasera a tutti. Adesso io mi sposto là in fondo perché volevo farvi vedere alcune cose, magari non vi stancherò troppo con principi biblioteconomici, che sono quelli che hanno portato ovviamente alla considerazione di questo patrimonio, su cui appunto sono stati applicati gli standard biblioteconomici internazionali per la catalogazione, la soggettazione, l'intestazione. Sono tutte cose molto tecniche su cui noi bibliotecari, io e le mie colleghe, in questi 2 anni ci siamo soffermati. Vi facciamo vedere come tutto questo lavoro biblioteconomico è servito a portare alla massima presentazione, alla migliore presentazione e visibilità di questo patrimonio sul nostro sito, nel nostro catalogo, e di conseguenza quando il materiale è in un catalogo, in un OPAC, che è un catalogo aperto al mondo nel web, questo significa che queste opere sono disponibili per tutta l'utenza che ha voglia, interesse o il bisogno di ricercare questo materiale. Quindi ora vi farò vedere un pochino come questo materiale è stato inserito nel nostro catalogo, come lo possiamo trovare, come quindi tutti gli utenti che vengono nella nostra biblioteca, ma anche quelli che sono molto lontani, possono accedere a questo materiale che noi mettiamo a disposizione dell'utenza ben volentieri. Insomma, che lavoro e che importanza ha questo lavoro per il patrimonio di un fondo, anche che in questo modo, ovviamente, come diceva la direttrice, è stato messo a disposizione dell'utenza globale. Ecco, quindi vi faccio vedere un paio di cose. Appunto, qui un paio di principi biblioteconomici, volevo soltanto per farvi notare come sono stati utilizzati i principi internazionali per la creazione delle schede catalografiche che sono necessarie all'interno del catalogo, In particolare, quindi, abbiamo seguito per la scelta e la forma dell'intestazione, che poi vi farò vedere magari nella scheda catalografica, le regole italiane di catalogazione per autori, il soggettario per i cataloghi delle biblioteche italiane per la soggettazione. Sono dei documenti standardizzati che vengono utilizzati e vengono creati all'interno di gruppi di lavoro che partono dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, ed è il principio che viene applicato a tutte le biblioteche italiane, e la classificazione decimale Dewey in edizione ventunesima per la classificazione. La classificazione, che è il sistema che ci permette di dividere tutto il sapere, tutta la conoscenza in degli ambiti disciplinari secondo un sistema numerico che viene applicato nella descrizione del libro. Ovviamente questi sono concetti un po' tecnici che però aiutano noi avvicinare il pubblico a questo tipo di concetti, a sistemare negli scaffali nel miglior modo possibile il materiale seguendo delle divisioni disciplinari e ad aiutare l'utenza nel reference nel miglior modo possibile, perché individuiamo attraverso queste classificazioni, la decimale e la soggettazione, l'opera migliore per la necessità che l'utente in quel momento sta esprimendo. Le descrizioni dell'opera, del testo, per creare la scheda catalografica, sono strutturate secondo ISBD, che è uno standard internazionale applicato appunto per la descrizione della scheda catalografica. Ora, questo giusto per farvi capire che inserire un libro in un catalogo comporta un certo lavoro di riconoscimento, conoscenza anche dei contenuti che ci sono in quest'opera, e non è semplicemente una descrizione di un titolo e di un autore, ma appunto per creare un catalogo utile e nazionale serve rispettare certi requisiti, e questo è stato fatto anche per le opere del Fondo Focolar Forlani. Quindi volevo dire, per identificare poi la provenienza del fondo, delle opere di questo fondo, affinché venisse questo riconosciuto all'interno del nostro catalogo, che comunque ha già 30.000 opere schedate e più di 50.000 volumi, ovviamente le opere del Fondo Focolar Forlani, che sono circa 500, dovevano essere ben visibili e riconoscibili attraverso alcuni segnali. In particolare noi abbiamo trovato una collocazione adeguata e soltanto specifica per il fondo, che avrà una segnatura FOFUR, che troviamo, poi vi farò vedere delle immagini e quindi potrete riconoscerli, e quindi noi sappiamo che queste opere fanno parte di questo fondo. E abbiamo poi inserito all'interno della scheda anche una etichetta che segnala esplicitamente che questa opera fa parte del fondo. Ecco, questa è un po' l'immagine, fatto vedere un libro dove sono riportati un po' tutti gli elementi che a noi servono per individuare il testo. L'immagine non è chiarissima, però adesso vi spiego. Cioè, comunque le opere erano già segnalate con un timbro del fondo che le aveva già individuate, e quello ovviamente è rimasto per mantenere la specificità e l'appartenenza del fondo. Noi abbiamo poi inserito una nostra etichetta a sinistra che ci riconosce il fondo Focolar Forlan, e poi le etichette che vedete poi a destra sono delle etichette che noi mettiamo su tutti i nostri libri, che ci permettono una gestione amministrativa e il riconoscimento del volume all'interno del nostro catalogo. Questo trattamento è stato riservato a tutte le opere, sia alle monografie che ai periodici. Ecco, questo è il sito. Volevo farvi vedere come appunto anche all'interno del sito è stata messa una descrizione del fondo e quindi la visibilità che è stata data alla... L'abbiamo fatta trilingue, vero? Sì, esatto. In tedesco e in inglese. Poi vi farò vedere comunque anche il sito, questa adesso è soltanto una fotografia che ho segnato, inserito qui dentro, e quindi la visibilità del fondo all'interno del sito e del catalogo. E questa è una scheda catalografica che poi comunque vi faccio vedere di nuovo nel dettaglio quando guardiamo il sito, e con segnalazione del fondo fra le note. Ecco, questo è adesso andare al sito, se riesco a trovarlo, aiuto. Siamo qua, ok. Ecco, questo è il nostro sito della biblioteca, questa è la pagina principale, intanto vediamo che intanto l'inserimento dell'iniziativa di questa sera, come facciamo sempre per le iniziative. Poi sulla sinistra vediamo proprio un link ai fondi, dove abbiamo inserito l'elenco dei fondi che sono in possesso della biblioteca in questo momento. Che si... Faccio vedere qua un attimo. Ecco, abbiamo il fondo Furlan. Quindi cliccando su questo link andiamo appunto a vedere questa breve notazione biografica che ci dà indicazione, una indicazione veloce di quello che è il fondo, di quello che è l'associazione, in che cosa consiste il fondo, appunto 550 opere di cui 20 periodici, il genere è vario, con particolare attenzione al nord-est italiano, lo stato in gran parte è catalogato, ovviamente continuamente vengono portate delle opere per completare questo fondo, quindi quelle di volta in volta vengono inserite, però appunto non tutto ancora è stato inserito, completato. Non è stato ancora inventariato, ma la maggior parte. Le opere vanno, la prima opera che abbiamo è del 1922, ho segnato il 2008, però appunto siamo ancora in lavorazione, cioè tutto quello che ci viene poi portato per aggiungere e completare il fondo viene poi di volta in volta inserito. Da questa pagina possiamo andare al catalogo, questo è il catalogo della biblioteca, questo catalogo ovviamente è sul web, si vede da tutto il mondo e in particolare ci sono vari modi per fare una ricerca, ma abbiamo dedicato addirittura una sezione, cioè la ricerca delle opere del Fogolar Furlan si possono fare anche semplicemente dal catalogo dell'intera biblioteca facendo una selezione su vari campi della scheda catalografica, ma possiamo restringere la ricerca andando a cercare qua proprio il catalogo del fondo Fogolar Furlan. Qui dentro troveremo solo le opere del fondo Fogolar Furlan. Quindi c'è un legame, diciamo, esatto, informatico che unisce tutti questi documenti. Quindi possiamo fare questa selezione, possiamo cercare le opere di interesse sul catalogo generale, poi andare a individuarle come appartenenti al fondo, oppure cercare solo all'interno del fondo. Vi faccio vedere, se faccio una ricerca adesso... Ho scritto giusto perché sì, va è lontano. Adesso per esempio ho inserito semplicemente Friuli come soggetto. Posso fare una selezione, trovare tutte le opere che hanno come soggetto Friuli. Adesso vi faccio vedere, in questo abbiamo trovato 126 opere. In questo momento la visualizzazione è data in, cronologicamente a partire dal più recente. Ecco, questa è un'opera dove vediamo appunto la scheda catalografica, il titolo, i dati sulla pubblicazione, i dati della descrizione fisica dell'opera, che sono appunto tutti i campi basati su quel criterio di catalogazione standard internazionale che vengono applicati, sono campi descrittivi che dobbiamo, che vanno inseriti per meglio identificare l'opera. Nella nota di provenienza, ancora una volta, ritroviamo l'indicazione che si tratta del fondo Fogolar Furlan e troviamo un soggetto. Questo appunto aiuta il bibliotecario e l'utente a trovare l'opera più adatta alle proprie esigenze. Questa è la classificazione decimale di Dewey, appunto quel codice numerico che ci permette di inserire l'opera all'interno di un ambito disciplinare, e questo è l'autore. In questo caso un autore secondario perché è un ente. Cosa importante ancora è il posseduto della biblioteca, e qui concretamente andiamo a vedere dove si trova questo testo che troviamo indicato qui. Questo è un po' l'indirizzo di questo libro che noi andiamo a trovare a scaffale in base a queste indicazioni. Appunto questa segnatura che avevamo individuato per non disperdere all'interno del patrimonio grande ormai le opere del Fogolar Furlan, la classificazione ed altri dati. Comunque questo è proprio l'indirizzo del libro. Ecco, questi sono un po' i dati importanti per ritrovare all'interno del nostro patrimonio i testi del Fogolar Furlan. Le ricerche si possono fare in vari modi, ovviamente noi aiutiamo sempre l'utenza quando ha bisogno a fare la ricerca migliore, anche se poi gli utenti sono anche sempre molto, molto bravi e molto attenti. Volevo farvi vedere qualche immagine, così vedete anche dove sono questi libri, come sono sistemati. Al momento si trovano nel nostro magazzino di imballaggi, anche per una questione di conservazione. Le foto, vediamo se le trovo qui. Ce la fai, sì. Allora, intanto volevo tornare un pochino indietro nel tempo e farvi vedere il momento in cui il fondo è stato consegnato alla biblioteca. Ecco. Allora, vediamo se riesco a trovare qui. Questo era il 2006, ottobre del 2006. Aiuto, infatti non vedo più dove siamo, ok. Il momento in cui era stato appunto consegnato il fondo, cioè la direttrice, il dottor Vitali Russi. E l'assessore Cigola. Attenzione, mi stanno partendo velocemente perché non riesco a trovarla. Questo è la pausa. Sì. Non riesco a sospendere, okay, qua. E questo era appunto il momento in cui tutto questo è iniziato. Così un piccolo ricordo. La firma. La firma. Eravamo qui. Sì, credo che avevamo più libri sugli scaffali, perché abbiamo dovuto spostarli quasi tutti giù in via imballaggi. Ecco, e adesso vi faccio vedere dove sono invece le nostre, il nostro fondo. Ecco, questo è via imballaggi. È un magazzino completamente ristrutturato, arieggiato e con un sistema di ariezione, antincendio, eccetera, eccetera, con dei nuovi scaffali. Ci lavoriamo quotidianamente, quindi, perché andiamo a prendere, a portare libri a seconda delle richieste degli utenti, in quanto qui abbiamo un quinto di quello che noi abbiamo a disposizione. Mamma mia, non è comodissimo. No, anche perché per motivi di sicurezza siamo obbligati ad andare in due alla volta. E quindi chiaramente quando servono facciamo una lista di tutte le richieste degli utenti, e poi una volta al giorno due persone prendono e vanno, ma dobbiamo presidiare anche la nostra postazione qua, e quindi ecco, dobbiamo trovare il momento migliore per fare questa cosa. Devo dire la verità, nel panorama italiano le biblioteche più o meno si arrangiano in questo modo, perché in tutta Italia, da quelle universitarie a quelle, cioè la mia consolazione è anche questa, no? E in tutte le quelle universitarie, via dicendo, sono nuclei che si ingigantiscono sempre di più, e quindi vengono ad occupare man mano gli spazi necessari, e c'è sempre una distribuzione abbastanza dispersiva di quelli che sono i locali destinati ad uso bibliotecario. Noi per il momento abbiamo questa situazione duplice, perché è così anche la Tesman e altre biblioteche, solo che il nostro proprio spazio in questo momento è limitato e l'unica garanzia che abbiamo per conservare al meglio è via Balaggia. Ma siete in grado di accoglierne altri? Sì, sì, beh, in questo magazzino abbiamo praticamente solo 300 metri quadrati, al momento ne abbiamo, penso, occupati 180, quindi ne abbiamo ancora 120 metri quadrati. Questa è proprio la parte dove c'è... Sì, infatti si vede anche il caldo. Ci sono delle enciclopedie che sono catalogate, delle riviste. Ho fatto vedere questo, c'è stato anche perché è carinissimo. Sì, infatti. Il dizionario di Richard Scarry, quindi questo. Sistemato. Ecco lì in basso a destra vedete questa famosa etichetta con l'indirizzo del libro. Questa qua. E poi c'erano quelle precedenti, no? Esatto, ovviamente nell'ordine che era stato dato. Ma le abbiamo lasciate per ricordo, perché il libro ha una storia, no? Quindi esatto. È anche il peccato togliere. Questo proprio per far vedere questa sopra la collocazione, l'identificazione che era stata data all'interno dell'associazione. E poi abbiamo applicato le nostre, ecco. Ci ha fatto vedere, queste anche le riviste abbiamo catalogato, quindi sono consultabili anche quelle, peraltro sono sempre un patrimonio molto importante, addirittura abbiamo anche questo che è un vinile, un disco, questo è sempre un po' l'indicazione di come vengono sistemati gli scaffali, questi testi. Anche di libri che abbiamo tantissimi vocabolari e anche tante opere in friulano proprio. Ecco, questo è, se avete qualche domanda, questa è la visibilità che è stata data al fondo, penso che è praticamente visibile al mondo intero. Ecco. Complimenti per il lavoro. Grazie, grazie Elena. Ecco. Mamma mia. Presidente. Non è così semplice. Buonasera, sono Vito Mauro, sono il presidente del Folgorato Brand di Bolzano. Ringrazio la dottoressa Trevisan di questa la dottoressa Mirko e Pfeiffer di questa opportunità che ci hanno dato di accogliere tutti questi nostri libri e dargli una valorizzazione, avete visto che noi non avremmo mai potuto dare, anche perché non abbiamo la sede, non abbiamo più sede, quindi, ma anche avendo una sede rimaneva ristretta la diffusione di questi libri soltanto nel nostro piccolo ambito, qualcosa in più, mentre in questo modo va al mondo, cioè in pratica tutti sanno che questi nostri libri sono stati valorizzati. Sono tanti, 550, ma ne dovremo aggiungere ancora, perché ne abbiamo ancora una trentina di libri che ho a casa, che porterò, poi ci metteremo d'accordo su come consegnarli, su come fare, ma questi sono piccoli particolari. E quindi andranno a incrementare questo fondo appunto che dicevo, ma va sempre tenuto vivo, anzi a cui bisogna cercare di dare sempre una massima diffusione tutto quanto. Se non altro per come riconoscenza, perché ha saputo raccogliere, ha saputo custodirli anche nel suo garage per un certo periodo, mi diceva Di Rossi che aveva avuto anche un certo periodo nel garage, perché dopo che la sede del Fotografo Urlano è stata un po' tolta, diciamo così, per ragioni molto, molto economiche, avere la sede ormai costa moltissimo, forse conviene fare in questo modo. Bene, io non posso aggiungere nient'altro a questa esauriente spiegazione, devo soltanto approfittare di questa occasione, qui siamo in tante persone, per ringraziare presidente Virussi, che come sapete è stato nominato dall'Assemblea dei Soci presidente onorario del Folgorato Urlano. Ecco, allora approfitto di questa occasione, cui siamo qui in tanti, per consegnargli un piccolo attestato che sancisce questa nomina presidente onorario. Ecco. Ecco qua, grazie. Lo leggo io, l'Assemblea dei Soci, esaminata la richiesta del Consiglio Direttivo, conferisce a Virussi Renato il titolo di Presidente Onorario del Folgorato Urlano di Bolzano, quale riconoscimento per la lunga ed instancabile opera prestata a favore del sodalizio, sia in qualità di Presidente che di Socio. Ecco, penso che a chi lo sì, sì, grazie, grazie. Ma tocca a me dire due parole, sicuramente, sì, anche come desiderio di farlo. Ma per rompere il ghiaccio dirò che come un segno di continuità ho portato un libro. Sì, un altro libro, riguarda il Friuli, nel senso che si parla di Chianfarmit, cioè di Campoformio. Quindi il titolo di questo libro è il trattato di pace fatto da Napoleone con l'Austria il 17 ottobre del 1797. E questo trattato fu firmato proprio a Campoformio, un piccolo paesino poco lontano da Udine, e del quale eventualmente il nostro presidente, che conosce bene la zona, potrà darci anche qualche altro dettaglio. Un piccolo paesino che ha conservato ha conservato comunque la piazza del trattato, un ricordo, eccetera. E vi dirò che per un certo lasso di tempo, dicono i testi, si credeva che il trattato fosse stato firmato a Villa Manin, perché Napoleone risiedeva lì durante le sue, quando è arrivato in Friuli, ha cominciato a risiedere anche lui nella grande Villa Manin di Passariano, che è l'ultima villa del doge Manin, grandissima. Se pensate che facevano raffigurazione delle battaglie navali all'interno, quindi per chi non la conoscesse è una grande villa. E Napoleone risiedeva lì, invece, e si pensava che fosse stato firmato lì, invece alcune ricerche avvenute dopo hanno confermato che il trattato invece era stato firmato proprio a Campoformio. E quindi a Chianfarmit, a Campoformio, è proprio la sede dove è stato firmato. Osteria al trattato? Osteria al trattato, che è andata a meno come il nostro presente, sa molte altre cose. Direi anche che su quest'onda che Napoleone fece fare anche un monumento, c'è la fotografia su davanti del libro della pace, ed è una donna raffigurata, e quindi onore anche alle donne che si vede, sono solo il simbolo della pace e non della guerra. In Friuli si è guerreggiato sempre, avanti e indietro, non so quante popolazioni sono passate, addirittura mi viene in mente, che non ho ben presente, ma c'è una località in Friuli che in latino ai tempi di Aquileia e prima suonava Sagittarius. Sagittarius era la città dove fabbricavano le frecce per tutto l'esercito romano. Quindi a forza di fare le frecce, a forza di eserciti che venivano su, Aquileia è nata con 3.000 soldati franchi, contadini, mandati nel nord-est, perché già allora entravano orde, comunque invasioni a non finire. Ma fortunatamente in questo caso anche un trattato di pace in Friuli, insomma, quindi Campoformio. Quindi sulla prima pagina libera ho messo una piccola dedica, e se avete il piacere di lasciare la vostra firma su questo libro sarà un ricordo di questa serata di presentazione del fondo del Focolar, che può servire, insomma, a far trascinare tutti, o comunque a trasmettere questo microbo dei libri. Io ce l'ho avuto da un pezzo, ma spero che, insomma, i libri a tutti, siano chi ha avvicinato un libro, chi ha cominciato a leggere un libro, chi ha cominciato a stropicciarlo, a segnare, dei segnacci, con l'evidenziatore, con l'avviero, a fare delle pieghe, a metterlo da una parte, riprenderlo il giorno dopo, riprenderlo un anno dopo. Insomma, i libri sono un motore potentissimo, penso, per la cultura e l'accrescimento della cultura personale in tutti i campi, sia da quella classica a quella tecnologica o a quella eccetera eccetera, tutto, qualsiasi tipo di cultura, certo, quella classica, e comunque i popoli che hanno una forte, non so, una forte modernità, una forte spinta, una forte cultura, hanno di dietro anche una cultura fondata sui libri, sulla ricerca, sul lasciare le testimonianze, e su questa strada penso che anche la modernità forse porterà qualcosa di nuovo. Sento parlare dei libri elettronici, ma capisco anche che molti poi alla fine, quando c'è qualcosa di importante, si fanno fare la stampata. Quindi andrà a finire che ci vorrà l'uno e l'altro, sia la carta stampata che il libro elettronico, perché sono due cose diverse. Su questa vado un po' a braccio, mi viene in mente che qui in questa biblioteca io ho trovato un'innovazione primaria, per me almeno, è stata la biblioteca orale. Qui c'è stata un'iniziativa per cui si sono attrezzati e hanno proprio raccolto oralmente, quindi a voce, tutte le testimonianze e le descrizioni, così che i vari tecnici, amministratori, gente di tutte le diciamo, culture, anche io ho presente i tecnici perché ce ne tutta una serie, ma anche gente della RAI, gente della provincia, gente amministrativi, che hanno descritto a voce in un paio d'ore su DVD tutta la loro diciamo, piccola storia, da dove erano arrivati, che scuole avevano fatto, i primi lavori, il progredire dei lavori, e quindi passo passo tutta un po' la loro vita fino al momento attuale. E troverete, io credo che ne avete raccolte, non so se siamo rimasti ancora a un 200 esempi, insomma, di questa biblioteca orale, che è stata una grossa novità e che potete trovare anche, potete anche provare a sentire. E questo anche aiuta un po' nella formazione nozionistica e quindi un accrescimento culturale. Ecco, detto questo, dirò che i libri sì, sono stati un po' anche un tormento per un certo periodo, perché era un grosso volume, avevamo bisogno anche dei mobili, dello spazio, la gestione. Qualche libro è andato anche disperso, perché se non si tiene una gestione precisa poi va a finire che qualcuno magari se lo tiene, spero a fin di bene, ma insomma può succedere anche questo. E quindi quando abbiamo trovato un po' questo spiraglio di poterli così cedere, sia pure con un accomodato d'uso alla biblioteca, eccetera, io penso che tutti abbiano apprezzato, io ho apprezzato moltissimo questa possibilità di conservarli, di farci aiutare a gestire e di darli, come diceva il Presidente, a tutto il mondo, la possibilità di conoscere Folgolar Furlan, di conoscere i libri e di aprire e di continuare a portare libri anche per invitarvi a venire in biblioteca. Guardate che venire in biblioteca, potete iscrivervi. Forse non l'ha detto, c'è, ma lo promozione. Dico io. Fantastico. Non costa niente, potete iscrivervi, ricevete delle comunicazioni in base alla quale sapete quando ci sono delle presentazioni di libri. Anche in questi giorni ci sono state delle presentazioni di libri. C'è stato recentemente una su, che ho perso, Bolzano ho dimenticata, Bolzano così, quindi cose anche che riguardano la città, eccetera. Quindi anche venire in biblioteca a prendere qualche libro, credo che insomma sia anche una buona pratica da diffondere. E naturalmente io sono veramente commosso e ringrazio che veramente ci hanno dato una grossa mano a sistemare tutti questi libri. Ringrazio quindi la provincia, l'assessorato, in particolare la Claudiana, la direttrice, la signora Trevisan e tutti i componenti della Claudiana, perché hanno sempre dato una grande disponibilità, un grande aiuto, e li sentiamo vicini, quindi se avete bisogno penso che ci aiuteranno e noi continueremo a portare i libri. Io, come ha detto il Presidente, ne abbiamo ancora, avremo ancora il piacere di portare. Questo è delle arti grafiche friulane, per esempio c'è una serie di libri che le arti grafiche friulane hanno portato avanti, sia della vecchia storia ma anche della modernità, delle nuove, come pure c'è anche un'enciclopedia tematica sul Friuli. E questo legame, insomma, fra il Friuli e la città di Bolzano, ben fatto direi sulla cartolina, avete messo fra le due situazioni, Bolzano-Udine, un Mandi che è un po' il riassunto un po' della vita friulana, perché il Mandi... grafico è stato il signor Mauro Liccio. Certo, va benissimo. Il nostro è quasi un impostato. È stato quasi, un cordone ombelicale che unisce un po' le due situazioni, le due città. Bene, complimenti a chi ha fatto il logo, chi ha costruito questo, perché è la realtà, insomma. Quindi viva il Friuli, viva il Focolare Furlan, viva la terra anche che ci ospita. Noi siamo sempre stati aperti quindi alle collaborazioni, cercando di portare il nostro patrimonio e di scambiarlo e di progredire, e quindi grazie veramente di cuore a tutti voi che avete fatto questo lavoro. Non mi sembra di avere molto da aggiungere, anzi, penso proprio di non aver aggiunto niente. Ringrazio ancora il Presidente per il libro che mi ha fatto, Li Rossi per il libro che mi ha dato l'altro giorno, 839 pagine della storia del Friuli scritto da Pio Paschini. Io non sapevo chi era questo Pio Paschini, ma il nome mi suonava, poi invece era intitolata Pio Paschini la scuola media dove ho studiato, quindi non sapevo neanche poi di Martignacco intitolata a lui, e io non sapevo neanche questo, così adesso so che è uno storico rinomato. Signore, io non ho altro da aggiungere a tutto quello che è stato detto, se non ringraziare ancora una volta la dottoressa Fainfofer, la dottoressa Trevisan qui alla Biblioteca Claudiana. E niente, continuiamo la nostra collaborazione, come ne parlavamo tempo fa, col prossimo anno magari di riuscire a presentare un autore friulano con qualche libro, cioè in pratica non si ferma qui, non si ferma al fatto di portare dei libri oppure di inserirli insieme, ma vediamo di fare qualcosa insieme, perché c'è qualche conferenza, qualcosa insieme. Ecco, questo penso sia l'auspicio, e questo vuol dire anche diffondere la cultura friulana nel nostro ambito, ma nell'ambito della cittadinanza dell'Alto Adige. Grazie. Grazie.